Grazie, troppo buoni. Poi andiamo a presentarci dopo. Questo è un pezzo di Jethro Tull, un po' tranquillino, così i vecchiettini si riposano, i pensionati anche. Whenever I can feel this way, trying to find a word to say, I think about the bad old days. Not of winter, tell me cold, but as I am getting old, I run a race, the race was won by a runner's lonely. Cause the sun had a consistent the sound, as lonely upstairs, first the down, and so stony ground. We used to know real matters more than the student span. Man, no time to lead the band. The battle day on the camera wheel. Getting ready for the town. Sitting out for the burden man, while I'm the foot of the land, take the way before the man. It's a time to go. It's a way where they have the mind, with the luck, this what you found. Before the remember time, to know. Try to find your word to say. I'm thinking about the bad old day we used to know. Grazie. Approfittiamo di questo pezzo per l'inizio, così vado a presentare i disgraziati. Vai, vai. Alle mie spalle, come potete notare, è Aldi, Mauro. Non sembra, ma è un... Si riconosce a prima vista, non puoi sbagliare. Vai. Alla mia sinistra adesso partirà probabilmente lui col basso, Michele Campolunghi. Vicino a me, anche se non sembra, ma ha compiuto i suoi 50 anni e passa, Franco Mandelli alla chitarra. Dietro di me, non è riconoscibile, è assolutamente unico, Alberto Bricchi alle tastiere, organo Hammond. Se lo vedete per strada lo riconoscete subito, non si può sbagliare. Io sono Mauro, vai.